E anche questa mattina, cari signore e signori, i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Bentrovati, questi sono i fuori posto, Filippo Roma e Umberto Alezio. Rieccoci di nuovo qua. Rieccoci, vi tocca, cari signori, vi tocca, eccoci qua. Umberto, sto osservando la camicetta che indossi questa mattina. È una camicia blu a pois bianchi. E allora, a vedere questa camicia, mi sto ponendo dei dubbi e mi sto dando anche delle risposte sul perché, scusa se ti riapro la ferita, la tua ex t'ha lasciato. Cioè, dobbiamo partire così, proprio con fuori amore subito. Sì, perché se tu ti presentavi agli appuntamenti con sta camicia, c'ha ragione lei ad averti lasciato. Ma proprio oggi, che non volevo parlare di amore e di fuori amore... She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. La nostra rubrica, no, che riscuote tanto successo. Cioè, tu devi infierire sul fatto che la mia ex mi ha lasciato. Vabbè. Sì, perché vedendo questa camicetta ho capito forse il motivo per cui lei ti ha lasciato. Però, vedi, ormai è come in Ghost, no? Cioè, in realtà, poi io dico che mi ha lasciato, no? Ma in realtà lei aleggia, no? Intorno. È nell'aria. Anzi, approfitto. Posso approfittare? Dai. Apritemi la porta della regia perché voglio lanciarle un bacio. Oh, questo è il momento più bello della giornata, quando Umberto prende la sua mano, ecco, sulle labbra e lancia questo bacio al cielo verso il suo amore perduto. Speriamo che non colpisca Filippo Roma, perché sarebbe imbarazzante. No, mi abbasso. Che schifo. A proposito, ma una curiosità riguardo il vostro rapporto. Devi infierire, no? Ma parliamo. No, no, oggi voglio andare fino in fondo. Oggi volevamo, no, voglio trattare di temi seri. No, no, no, no, perché sono io che oggi voglio andare fino in fondo. Voglio capire le ragioni dell'abbandono, le ragioni del perché ti ha lasciato. Ad esempio, no, tu a sta ragazza gli facevi qualche regalo? Ma sì, certo che gli facevo un sacco di regali. Tipo che li compravi? Prima cosa, ti dico la verità, a me, io odio fare regali nelle ricorrenze, no? Perché tipo giusto, a Natale, giusto, al compleanno, scontato, che uno se l'aspetta, giusto, no? Giusto. Però insomma, mo, i regali, mo, che dobbiamo fare? Un reality sulla mia vita privata, sulla mia sofferenza. I regali sono privati, quindi lei lo sa, e gli ho fatto dei regali, ma... Tipo? Adesso dico questa cosa brutta, meschina. Potrei fargliene tanti altri. Che squallore. Sì, che adesso con i soldi di Radio 24 Umberto farà un bel regalo alla sua ex, giusto? Investirò tutti i guadagni, no? Tutti i guadagni di compri questo programma. Boh, non lo so, ci penso. Poca roba, l'importante è il pensiero, no? Anzi, chiediamolo a casa. Come avete conquistato il vostro lui o la vostra lei? Oppure diteci qual è il regalo più brutto che va fatto, il vostro lui o la vostra lei, scrivendoci ai fuoriposto @radio24.it, oppure Umberto. Oppure io voglio sapere il regalo più imbarazzante che avete ricevuto da lui o da lei, no? Scrivetemelo su WhatsApp al 349-2386666, oppure messaggio in segreteria, giusto, Filippo? Sì, allo 02-465-24-182. Oppure scattate una foto, no, e postate il regalo più brutto, più bello, più imbarazzante o più romantico che avete ricevuto sulla nostra pagina ufficiale Facebook, che è I Fuori Posto. Fatecelo vedere. E a proposito di Fuori Posto, caro Umberto, oggi trattiamo un tema veramente da fuori posto, perché se c'è un modo purtroppo nella vita per stare fuori posto è quando si diventa schiavi di una dipendenza. Quindi partiamo, no, con questa volta un argomento serio, con una volta tanto un argomento una volta serio tanto, una volta... No, noi due accattoni, mentecatti, disadattati, fuori posto, no? Possiamo trattare anche un argomento serio. Infatti oggi parliamo di gioco d'azzardo, di ludopatia, che è un fenomeno che in Italia si sta diffondendo sempre di più. Sì. I dati in Italia sono pazzeschi, perché pensa che in Italia ci sono 900.000 persone che hanno questa, che per molti è una vera e propria malattia da cui non riescono ad uscire. E per fatturato l'industria del gioco è la terza industria italiana. Addirittura. Addirittura. E a tal proposito avremo a breve la testimonianza di Marco, che è un ragazzo giovane che, pensate, nel giro di 15 anni, no, ha perso quasi 1 milione di euro con il gioco d'azzardo. È corretto, Marco? Sì, purtroppo è esatta la cifra, esatta. Esatta. Certo. Senti, il nostro programma si chiama Fuori Posto, no? Sì. Chi gioca d'azzardo, no, come te, e che in questo caso perde anche tanti soldi, quindi avevi, immagino, anche una disponibilità economica forte, no? No, avevo, certo. E si sente fuori posto? E perché? mi sento, a dire la verità, un po' uno scarto, perché mi rendo conto delle difficoltà che ci sono a giro oggi in Italia, delle persone, degli amici, delle grosse difficoltà che hanno, e sapere che ho buttato via questo patrimonio non solo mi rattrista, ma mi fa sentire una persona abbastanza inutile al mondo d'oggi, perché potevo essere tranquillamente una persona benestante, magari anche lavorare meno degli altri amici, invece sono qui purtroppo. Certo. Con grosse difficoltà. Hai perso tanti soldi, no? Hai perso tanti soldi. Ci dicevi, insomma, che hai perso tanti soldi, no? Un milione di euro, no? Ma a che cosa giocavi tu? Allora, io il vizio più grosso sono purtroppo le slot e le bene amate che sono arrivate da pochi anni, le VLT, le videolotteri, dove si può puntare anche fino a 10 euro a colpo, per non parlare poi della mia rovina più grande, sono i giochi online, dove purtroppo per legge si può addirittura puntare fino a 1000 euro a colpo. Ci sono dei casino online che si può fare anche una puntata di 1000 euro a giro di slot. Senti, quindi tu come hai iniziato la prima volta? Com'è che ti sei trovato davanti una slot? La prima volta era le vecchie slot da bar, quelle che andavano a un euro. Un mio amico mi ha detto prova, io ero addirittura contro questi tipi di giochi perché non mi interessavano, e la mia più grande sfortuna è che con quell'euro ci ho tirato fuori una cinquantina d'euro. Ora non ricordo, l'euro entro da poco, forse era 2001-2002. Quindi tu hai iniziato paradossalmente con una vincita, no? Il tuo dramma è iniziato con una vincita. Il dramma del vero ludopatico è proprio quello, nel vincere nel giro di pochi tiri una somma magari raddoppiata o vince 10-50 volte più della puntata, e da lì inizia il dramma. Se uno le prime volte gioca ha solo delusioni, difficilmente entra nel mondo della ludopatia. Certo. Secondo me. Ascolta, ma tu i soldi per giocare, no? Da dove li tiravi fuori? Allora, io avevo una situazione familiare abbastanza, agiata. Ho babbo, mamma, insomma, che stavano bene, e purtroppo per me, mi finanziavano, perché non c'era nessun tipo di problema. È che alla lunga, a parte che ho iniziato a lavorare, avevo nemmeno 15 anni, quindi insomma un po' di soldi da parte l'avevo messi. Poi vinci perdi, alla fine arrivi, insomma, la cifra persa purtroppo è proprio questa qui. Un milione di euro, no? Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che Marco nell'arco di 15 anni si è giocato, anzi, più di un milione di euro, ha perso più di un milione di euro. Una cifra astronomica, avresti potuto comprarti una casa con quei soldi, pensi? Esatto. Ah, tra l'altro, una eredità di mia nonna, tra l'altro, appunto, era una casa da 250.000 euro che ho provveduto a vendere e giocarmi, insomma. Questo, sempre alle slot? Fra slot, ora ripeto, le ultime VLT che pochi anni, e le scommesse, perché mi piace molto anche le scommesse. Cioè non ti manca niente? Ma ci spieghi una cosa? Forse l'unica cosa sono i gratta e vinci, ci ho sempre giocato poco, non mi tirano, però per esempio anche le scommesse in singole, magari mettevo una partita, vi sparo, Barcellona, la Juve, mettevo 700-800 euro su quella partita, e vi assicuro che in 15 anni si fa presto a arrivare a quelle cifre. Ci spieghi una cosa? Perché per entrare nella testa di un ludopatico, ma cosa ti scatta quando giochi? Perché non riesci mai a smettere? Molto difficile rispondere a questa domanda. Scatta un meccanismo, sinceramente non lo so spiegare bene. Non so, tutto parte dal fatto di almeno personalmente a me mi bastava raddoppiare le cifre, nel senso che poi sembra poco, ma io di 100 euro magari se arrivavo a 200 ero già abbastanza contento, no? O di 500 arrivo a 1000, che sembrano cifre astronomiche, ma uno basti pensare che già una partita favorita che è quotata 2, metti una cifra e la raddoppi subito. Il problema del ludopatico, secondo me, è che quando perde quella cifra, grande o piccola che sia, scatta un meccanismo che si chiama di recupero. Cioè te quell'euro, quei 100 euro o quei 1000 euro che siano, e vuoi recuperarli, li vuoi recuperare a tutti i costi, e il problema non ti rendi conto, ma da lì a poco non solo recuperi quelli, ma perdi altrettanti soldi. Cioè cifre poi da 1000 euro diventano 10.000, 15.000, sempre se uno ha la possibilità, ovviamente. Senti, a parte venderti la casa di tua nonna e giocarti tutto il ricavato, insomma, con le slot, con le scommesse, quale altra cazzata hai fatto? Ripeto, via via negli anni, essendo stato finanziato, sono stato al casinò, sono arrivato in una sera, ero arrivato, parlo tranquillamente, io ho 25.000 euro in contanti, tra roulette, slot e tutto, il primo sabato avevo quasi raddoppiato, quindi ero quasi arrivato a una cifra sotto, diciamo, i 50.000 euro, era andata abbastanza bene. Una persona normale, a parte non ci sarebbe andata al casino con tutti questi soldi, ma comunque penso avrebbe smesso, sarebbe tornata a casa. Io sono rimasto lì 2-3 giorni e ho perso tutto. Addirittura sono arrivato a casa praticamente con il treno senza biglietto, perché non avevo nemmeno la possibilità di fare più il biglietto. E a proposito di casa, no? Ma i tuoi genitori cosa ti dicevano? Cosa dicevano? non credo potessero dire tanto. Io ho sempre cercato di dire, insomma, mi compravo la macchina, mi compravo vestiti, mi compravo quello e l'altro, roba di marca e tutto, però alla fine è venuto fuori il mio problema, più che altro se ne accorta mia mamma. Come è successo? È successo che alla fine inizi a trovare schedine in giro, tipo di qualche bookmakers, e inizi a vedere, magari ti chiedo anche 5.000 euro in un giorno, e uno si inizia a domandare, ma 5.000 euro oggi che ti servono? Io posso aprire 200 euro per comprarti il pantalone firmato, capisco tutto, non so, magari sospettava che mettevo 100 euro alle slot, ma quando inizi a chiedere 5.000 euro in un giorno, uno dice, ascolta, ma qui c'è qualcosa che non torna, te che dici? Senti, allora, i tuoi genitori adesso in che situazione finanziaria sono? Non più rosea come prima, ma se la passano benino, perché se la sono sempre passata benino. Il problema è che a me non mi passano più nemmeno un euro. Vorrei vedere, meno male. Perché tu in questo momento ci stai chiamando, ma mi pare di capire che non sei uscito ancora da questa patologia, dalle macchinette. Mi piace essere onesto a voi, perché alla fine non vedo perché non dovrei. Io del tutto non ne sono ancora uscito. Quindi ancora giochi? Qualcosa sì, ma uscire del tutto non ce l'ho fatta, forse non ho la forza adatta per uscire, però sicuramente non posso più giocare le cifre di prima, quello è ovvio. Però il ludopatio, vi ripeto, non è il problema di giocare 1.000 euro per vincere 2.000, il ludopatio, anche se è 50 euro e stasera ne ho 250, è già una forma di contentezza, ti senti rilassato. Secondo me, io ho sempre detto che per me il vero ludopatio non è che gioca solo per vincere, il ludopatio gioca per regalarsi un'emozione. Non so se mi capite, io quei 50 euro che ho non solo le voglio raddoppiare e vincere, certo, vabbè, sono contento, bravabbara, tutti quei discorsi, io mi regalo un'emozione, compro un'emozione con quei 50 euro, mi do una botta di adrenalina. Ecco, noi ti auguriamo di trovare queste emozioni, insomma, nella vita di tutti i giorni e non più nel gioco. E detto ciò, ci sono comunque intanto grazie, perché immagino che non sia facile parlare di certi problemi o di certe dipendenze in pubblico. E, però per fortuna ti diciamo che ci sono tantissime associazioni e tantissime persone, no, che cercano di aiutare quelli come te che hanno la dipendenza dal gioco a uscirne, no? Quindi se vuoi, dopo in privato ti diamo dei riferimenti, e chissà mai che magari anche tu un giorno potrei dire sì, ne sono uscito fuori definitivamente, ne sono fuori per tutto. L'ultima cosa, caro Marco, ma proprio brevissimo, telegrafico, dai un consiglio, no, a chi è nella tua situazione o a chi potrebbe cadere nel vizio del gioco. Allora, mai giocate, mai, non, ma anche un euro, a volte capita, uno c'è il resto del caffè, il resto delle sigarette, non so, mai mettere un euro nelle slot, mai iniziare, le partite guardatele, il calcio è bello, lo sport è bello, vi guardano sport, guardatelo, non ci scommettete, tanto alla fine vincono sempre loro, i bookmakers sono fatti, sono nati per vincere loro, sono fatti per guadagnare, se uno scommette alla fine perderà, puoi vincere una volta e 100 ne perdi, le slot, il resto del caffè mettetevelo in tasca, comprateci altre cose. Ma va bene, mi sembra chiarissimo ed efficace, mi sembra molto chiaro, insomma, grazie, sì. Grazie Marco. Niente. Grazie. Mi sembra molto chiaro il concetto, caro Filippo, no? Il mai, no? Cioè non iniziare neanche quella prima volta. Sì, neanche così, magari per scherzo, perché t'avanza un euro di resto, no? Sì, perché è incredibile che da un euro poi ti scatta una febbre, una dipendenza che tu non puoi più controllare. Sì, per fortuna ci sono tante associazioni e tante persone, no, che aiutano ad uscire, no, o comunque a trovare una soluzione a questa piaga, giusto Filippo? Esatto, e noi abbiamo con noi chi si occupa proprio di queste persone qua. Abbiamo Matteo Iori, che è il presidente del CONAGGA, che è il coordinamento nazionale che assembla una serie di associazioni che hanno proprio lo scopo di aiutare i ludopatici ad uscire dalla dipendenza dal gioco. Giusto, Matteo? È giusto, noi cerchiamo di fare proprio questo. E intanto grazie di essere intervenuto qui ai Fuori Posto e a Radio 24. Grazie a voi per l'invito e per poter parlare di questo importante problema. Allora, io ho detto pochi istanti fa, la ludopatia è una patologia, è una malattia, no? È giusto, è corretto? Ma è assolutamente giusto, l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce lo dice già dal 1980. Purtroppo l'Italia l'ha riconosciuto molto dopo, però sicuramente è una patologia che trascina con sé proprio il giocatore e anche il suo contesto familiare. Matteo, nella tua esperienza, quali sono le storie individuali che ti hanno colpito di più? Ma guarda, ce ne sono due che mi hanno colpito molto, tant'è che abbiamo deciso di inserirle in una guida sui rischi del gioco azzardo che regaliamo a comuni, a chiunque la voglia, alle istituzioni. Una era la storia di Mauro, che aveva tre figli quando è arrivato da noi, era dipendente da slot machine e ci ha raccontato che uno di questi figli morì in un incidente stradale e lui arrivò a prelevare tutti i soldi messi da parte per il funerale per andarseli a giocare, senza quindi permettergli un funerale dignitoso. Un'altra, la storia di Pina, era una signora del sud che era benestante, un'ottima persona, tranquilla e insospettabile, che arrivò, quando aveva iniziato a giocare e non aveva più soldi, a fare una rapina nel supermercato nel quale andava frequentemente con una pistola giocattolo. Ovviamente è stata riconosciuta subito perché non era criminale, ma era così presa dal gioco che non si rendeva conto di tutto quello che c'era intorno. Cioè, quindi il gioco portare la dipendenza da gioco. Quindi il gioco ti porta proprio ad avere uno sdoppiamento della personalità, mi sembra di capire. Il gioco diventa l'unico fine, l'unico centro di tutto, tutto il resto, tutto ciò che c'è di razionale, di obiettivo, viene meno quando uno è preso dal loop del gioco. Che consiglio daresti alle famiglie che sono afflitte da persone che sono dipendenti dal gioco e che non hanno magari il coraggio di denunciare questa cosa? Che consiglio diamo alle persone che vogliono aiutare i propri familiari ludopatici? Allora, come primo consiglio per le famiglie è quello di tutelare il proprio patrimonio, prima di parlare col giocatore, di mettere al sicuro il proprio patrimonio. Anche su questo mi permetto di segnalare un vademecum gratuito che è scaricabile dal nostro sito, che è www.libera-mente.org, che è specifico per tutelare il patrimonio dei familiari. E poi, una volta che uno ha sistemato è tranquillo rispetto ai propri averi, perché il giocatore patologico tende a togliere tutti gli averi che ci sono intorno alla famiglia, parlare con la persona e chiedere aiuto ai servizi pubblici e ai servizi privati del territorio. Senti, i dati sono agghiaccianti, no? Tipo, leggo, una slot machine ogni 140 persone. Nel 2015 sono stati giocati circa 90 miliardi di euro. E la domanda che ti voglio fare è questa. Lo Stato potrebbe fare di più per aiutare questi malati? E poi che Stato è? Se da una parte invoglia con la pubblicità, con l'apertura di nuove sale slot, le VLT, no? E da una parte li cura, cioè non è un po' un cane che si morde la coda? Assolutamente sì, anche se tutti gli stati occidentali in realtà si trovano all'interno di questo paradosso. Da un lato promuovono il gioco d'azzardo perché sanno che comunque le persone lo fanno, da un altro lato si trovano poi a dover pagare i costi sociali e sanitari per le cure. E i governi purtroppo si sono mossi negli ultimi 20 anni sempre promuovendo nuovi giochi senza mai fare nulla per prevenire e curare. Per fortuna adesso sembra che la cosa stia piuttosto cambiando. Va dato atto all'attuale governo che sono state fatte tre cose importanti, cioè riconoscere il gioco d'azzardo all'interno dei LEA, garantendo ai servizi pubblici la cura gratuita per i giocatori patologici, che era una cosa che aspettavamo da 15 anni, sì. Mettendo 50 milioni di euro per prevenzione, cura e riabilitazione e vietando le pubblicità dalle 7 del mattino alle 22 di sera. E questo già è qualcosa, Oh, Matteo, si parla anche molto di intreccio, no? Tra il gioco d'azzardo e la criminalità organizzata. È assolutamente vero questa cosa, tant'è che la Commissione parlamentare sulle mafie da pochissimo, il 6 luglio di quest'anno, ha presentato una relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco d'azzardo. In che modo le organizzazioni criminali controllano il gioco d'azzardo in Italia? Ah, lo fanno sia in modo lecito che illecito. Illecito vuol dire quando organizzano i giochi fasulli, non so, le partite truccate, le corse clandestine, le bische, eccetera. Invece quando entrano nel gioco lecito significa che acquistano delle concessioni di gioco, delle sale bingo, delle sale VLT, delle agenzie di scommesse e gestiscono il gioco d'azzardo lì per un doppio fine: da un lato per un guadagno immediato che ti dà il gioco d'azzardo, dall'altro perché il gioco d'azzardo ti permette molto facilmente di riciclare il denaro sporco. Senti Matteo, un altro fenomeno che si sta sviluppando sempre più negli ultimi anni sono i cosiddetti viaggi all'estero degli anziani. Io ho fatto delle ricerche, no? E ho trovato delle agenzie italiane e non che soprattutto nel nord-est prelevano al mattino gli anziani, i pensionati, e con la scusa di fargli fare una vacanza oltre confine li portano nei casinò, e molti di questi, siccome il viaggio è pagato, addirittura alcuni ti danno in omaggio dei gadget e il cibo gratis per la giornata, e molti di questi poveracci che magari hanno una pensione a disposizione si giocano tutto, no, in questi casinò. Cioè, io quando ho letto e ho visto anche dei video al riguardo, sembravano quasi deportati, no? Persone sole che poi vengono portate nei casinò e vengono riportate a casa, magari con il portafoglio un po' più vuoto, solo per fargli giocare tutta la pensione. Tu sei a conoscenza anche di questo fenomeno? Assolutamente sì, c'era stata una situazione molto particolare dopo il terremoto dell'Emilia, era saltato fuori che erano quasi casualmente aumentati anche i viaggi che partivano da quelle zone terremotate per andare ai casinò oltre confine. Quasi forse come se potesse essere un modo per esorcizzare la paura, era sicuramente un modo per fidelizzare nuovi giocatori, quindi in questo caso erano gli anziani, ma così come ci sono tante attività legate magari a fidelizzare giocatori molto giovani o a giocatori con target diversi. Sicuramente molti di questi utilizzeranno questo gioco per socializzare e stare fra di loro, e la maggior parte immagino non avrà problemi di patologia, ma all'interno di ogni pullman che va oltre confine sicuramente ci sarà anche qualcuno che si brucia tutta la pensione in quella giornata e quindi che sarebbe molto più opportuno stesse a casa. Perché poi le multinazionali del gioco in questo caso, no, approfittano della solitudine degli anziani. Il gioco d'azzardo lavora molto sulla solitudine, sul far sì che il giocatore si isoli e in qualche modo costruisca il suo mondo sul gioco d'azzardo, che sia davanti a una slot machine, che sia davanti a un bingo, che sia davanti a internet, a una scommessa. Di fatto il gioco d'azzardo lavora molto sulla solitudine della persona e molto poco sulla socializzazione. Matteo, puoi dare un riferimento telefonico a tutti coloro che ci ascoltano e che potrebbero avere bisogno di voi? Certo, il nostro centro, che serve anche come centralino per tutti, il CONAGA, che è il 0522 53 20 36. Grazie Matteo, grazie per essere stato nostro ospite. Allora, questo è il numero che potete fare se avete la necessità e il bisogno di uscire dall'angoscia, dal dramma della ludopatia, oppure se avete in famiglia qualcuno afflitto da questa dipendenza. Voi, se avete storie particolari da raccontarci o comunque volete raccontarci il vostro dramma, noi siamo qui, i nostri microfoni sono a disposizione, anche perché Matteo ci ha spiegato in maniera molto chiara che la ludopatia è una patologia a tutti gli effetti e come patologia va combattuta. Esatto, va trattata, infatti è anche considerata una malattia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi lo è a tutti gli effetti. Noi facciamo qualche minuto di pausa e torniamo sempre qui tra poco ai Fuori Posto, sempre su Radio 24. I Fuori Posto. Eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi corazón, eres mi corazón, Ma ma chi è questo? Come non lo conosci? Lui, mai sentito. Allora, lui è sempre un mio amico, no? Ah, un amico tuo. Uno che era fuori posto, ma adesso un posto l'ha trovato ed è anche famosissimo. Non in Italia, cioè in Italia è famoso così così, ma in Ungheria è famosissimo, no? Lui è il grande Bruno Maccarri e questo è Mare Mare Mare, vai! Un po' i tormentoni estivi, effettivamente. Infatti questa, Filippo, è un tormentone. E noi abbiamo l'onore di avere Bruno Maccarri a Radio 24 e fuori posto. Ci sei, Bruno? Porca miseria. Sono qui. Ciao Bruno, che onore. Ma che onore per me. È vero che questa è un tormentone dell'estate, questa canzone bellissima che stiamo ascoltando. È quello che stiamo cercando di fare fuori dove? Visto che qui non abbiamo molti buoni propositi. Comunque, la voce che ha sentito all'inizio è del mio amico che si chiama Janko Horvat, e quel brano è stato scritto Janko Horvat praticamente sarebbe il mio partner quando cantiamo insieme fuori, una collaborazione artistica. Ma allora tu sei famoso, sei famosissimo, sei un vero divo in Ungheria, giusto? No, non è giusto, non sono famosissimo, non sono un divo, sono una persona che cerca di fare ciò che l'Italia non gli ha dato e portare un po' la musica nostrana fuori, e vedo che l'apprezzano molto. Ma perché l'Italia perché non ti ha dato niente? Cosa succede in Italia? Perché non decolli? È semplice, a 53 anni nessuno punta su di te. Sei troppo vecchio, dice, ormai 53 anni... Ma io non mi sento vecchio, mi sento un pischello, sinceramente, però... Purtroppo le case puntano su di te, le case farmaceutiche, le case discografiche, no, scherzo. Vabbè, già è una cosa, no? Qualcuno punta su di te, mo le case farmaceutiche, le case discografiche. Guarda, sicuramente sarà qualche poliziotto punta il dito contro me, è stato lui arrestato, no, a parte gli scherzi, nessuno punta su di me qui in Italia, ti dico la verità. Io voglio dire, se mi permetti, prego. Faccio delle canzoni, sì. Queste, mi sono un po' specializzato sullo spagnolo, quindi sto cercando di fare delle canzoni un po' più sul ballabile, per far ballare la gente. Ho visto che all'estero, credimi, anche se sono nei paesi dell'estero, si divertono molto più di me. Voglio dire, la musica italiana è favolosa, perché la porti ovunque, la porti un Toto Cotugno, porti un Volare, che poi si chiamava quella canzone, pare che si chiamava Dici Toto Cotugno perché i tuoi primi, tra virgolette, successi all'estero li hai avuti quando cantavi le canzoni di Toto Cotugno, no? Giusto? Mosca, due volte sono stato a Mosca, hanno assolutamente voluto lasciarmi cantare di Toto Cotugno e praticamente per due volte consecutivamente l'ho dovuta cantare, rappresentare. Qui in Ungheria la stessa cosa, addirittura mi hanno fatto iniziare a cantarla in ungherese. Vuoi sentire un pezzo? Faccia sentire un pezzo. Allora, la canzone inizia così in ungherese: Imadok utro kenni, chitarro ene kenni. Cioè, se capisci. Vabbè, continua, eri stupendo. Anche io ho capito quello che ho detto. No, ma sul più bello ti sei interrotto, vai avanti, era bellissima. Eh sì, beato lei che te pensi che mi ricordo tutto, due pezzetti, poi adesso ci stanno gli amici appunto che lavorano insieme a me che continuano la canzone. Ah, quindi pezzo, ok. Comunque, invece, per i nostri radioascoltatori, due strofette di Lasciatemi Cantare, ce la puoi dedicare? Sì, ma perché no? Vai. Dai, va. Come si dice a cappella. Vai. Pronto? Vai, ci siamo. Ammazza. Cioè stai a spaccare le orecchie, stai spaccando Radio 24. Dai. Mazza che voce, Bruno, che c'hai. Ma perché uno come te ha questo grande successo all'estero, Bruno Maccarri, e invece in Italia fa fatica, secondo te? Non è che in Italia faccio fatica, in Italia vengo proprio ignorato. Allora, mi hanno proposto di vendere le canzoni, ma le canzoni, siccome il cibo ce l'ho sul piatto, non le vendo, perché sono come i miei figli. Ah. Voi avete, magari non so se state a sentire qualche brano mio, ma io ultimamente ho scritto delle canzoni, arrangiato con Gian Caterini, delle canzoni italo-spagnole che veramente, cioè io credo, ma non voglio... Dici qualche titolo, Bruno. Che è Iglesias? Dici qualche titolo, Bruno, dici qualche titolo di canzoni che hai scritto. qualunque. Le ricordi? Sì. Sì, no, no, allora Te chiamo amor, che sarebbe una canzone italo-spagnola-francese. Te chiamo amor? No, te quiero mon amour. Ah, te chiedo, è vero, mon amour, te chiero. Ma scusa, ne aveva fatta pure Gigi D'Alessio una canzone così, mon amour? È uguale, uguale, guarda. Mi pare di sì, però, vabbè. Vabbè, dai. Poi? Senti, purtroppo, se hai la spinta mediatica alle spalle, diventi 10 volte Gigi D'Alessio. A parte quello, torniamo a noi. Te chiero mon amour. Di che poi... parla? No, aspetta, soffermiamoci. Beh. Faccio un pezzetto, c'è un po' di spagnolo, un po' di francese? Faccio senti solo un pezzetto, aspetta un attimo. Vai. Beh, il ritmo c'è. È suadente anche la voce. Beh, il ritmo c'è. Bruno, ci canti una strofa? Abbassa, abbassa, Bruno. C'è un casino. C'è stanno a scoppare le orecchie, Bruno. Abbassa, abbassa, abbassa. Dove sta Bruno? Che fine ha fatto? Bruno! Ah, niente, Bruno ci sta sabotando. Pronto, Bruno? Bruno? Bruno! Abbassa, dove stai? Bruno? Bruno? Bruno? Se siamo giocato, Bruno. Ci sta più. Se... Niente, un bel ci tocca. Niente. Bruno? Però mi sta piacendo. Umberto, mi sta piacendo. Filippo, ti vedo ballando. Mi adesso sta piacendo, c'è un mi bel sta piacendo. Che bello che Bruno se n'è andato e ci ha lasciato questa canzone splendida. Allora, Francesco ci scrive: vogliamo vedere Filippo ballare dal vivo. Francesco, vieni qua a Radio 24 e assisterai a questo spettacolo ignominioso. Questo si è finita la canzone. Senti, che ti volevo dire? Ma oltre questo Mon Amour, qual è un altro titolo? Allora, Mare Mare, abbiamo fatto un videoclip l'altro anno. Mare Mare, quindi Mon Amour, Mare Mare? Beh, c'è sta anche... un altro abbiamo girato a Budapest, il videoclip, basta che metti su YouTube Bruno Maccarri e metti mi ricordo talmente, ultimamente l'ho fatta talmente tante che ti ricordi le canzoni che hai fatto? Allora, in 5-6 mesi ho fatto un album e mezzo, perché sai quando te scatta l'ispirazione, la vita artistica di punto bianco, no? Credimi che quando tante volte canto anche queste canzoni quando sto fuori, qualcuno mi tocca cantarla in playback, perché non, ma mica perché non ce la faccio, perché non mi ricordo proprio i testi, sono talmente non ti ricordi i testi, cioè tu fai le tue creature e poi le abbandoni, te le dimentichi un po', insomma. Ma sì, le abbandono sull'autostrada, giustamente. Senti, invece mi dicevi prima che ti chiedono, cioè molti cantanti, mi dicevi prima, hai detto una cosa interessante, che ti chiedono i testi da comprare, giusto? Però no, molti cantanti no, cioè c'è qualche personaggio che non è un cantante, bensì qualche produttore, che poi non so chi sta collegato, che mi ha detto, dice, tu potrei aiutarti a vendere qualche brano tuo, se ti interessa la vendita, ma non mi interessa, anche perché poi sarebbe un non sarebbero cospicue cifre, bensì sicuramente elemosine, quindi preferisco tenermele. E poi voglio io, se un giorno ci riuscirò a ritornare in Italia con qualcosa di costruttivo che ho fatto all'estero, e poi dar dimostrazione che non è l'età, cioè non sono i 53 anni, non è l'età, certo. Tu farei parte anche di un'iniziativa molto importante, no? Mi pare, mi dicevi prima, no? In un posto dove sono sicuro che vorresti che ci rimango là. Dobbiamo fare il 16 un concerto nelle carceri statali in beneficenza, ai carceri di Stato ungheresi, per i detenuti. Quindi tu parti e vai a suonare per i carcerati ungheresi, giusto? Io canterei anche per i carcerati nostri, voglio dire, perché ci sarà pure tanta brava gente. Vabbè, facciamo un appello. Facciamo un appello a Regina Celi, a Re Bibbia, al direttore dell'Ucciardone, l'Opera di Milano. Bruno, gratis o vuoi soldi per cantare nelle carceri? No, guarda, i soldi se li prendono quelli famosi. Io non so famoso, sono una persona molto umile, anche se non sembra, anche se non ha fatto sembrare, Enrico, però io sono vabbè, molto allora umile. Facciamo così, un cattarone, come si dice a Roma, vabbè. Un bambino ercore grande. Vabbè, allora, intanto, per chi fosse interessato ad avere Bruno Maccarri, può andare sul sito www.brunomaccarri.it, giusto? Che non è aggiornato, stavo 2 mesi indietro perché non c'ho tempo manco. E te ricordi le canzoni, non aggiorni il sito, sei in casino, Bruno, poi senti, che c'è però, ti lasciamo, no? Per quanto riguarda, perdonami, per quanto riguarda concerti in beneficenza, io non mi sono mai tirato indietro e mai lo farò. E ci fa piacere. Ovviamente, qui in Italia tanto vedrai che non esistono telefonate, all'estero io sto cercando di fare una propaganda, adesso sto cercando di farmi conoscere, quindi mi rimborsano soltanto le spese di viaggio, l'hotel, queste cose qua, ma non è che ci fanno ancora guadagni, non c'è il Bruno Maccarri famosissimo come dicevi prima, ti capisco insomma che devi strutturare la trasmissione simpaticamente, però il Bruno là sta cominciando a prendere piede e la cosa che mi rode, posso dire una cosa romana? Vai. Mi rode tanto il culo che io sono, cioè mi apprezzano fuori e qui, ma mi credi non c'ho una data qua, niente, non c'è nessuno ricorda che sono Bruno Maccarri. A Bruce, speriamo, dice, fammi sentire queste canzoni, o un produttore, che ne so, a nipote secondo grado di Caterina Caselli, via qua, vediamo. Aspetta, Bruno, hai visto mai? Oh, a Radio 24 ci stanno ascoltando, qualcuno magari ti avrà sentito e forse ci scappa una data pure qui in Italia. Allora, ti diamo 30 secondi per fare un appello a ai produttori italiani, no? Per invitarti quantomeno a farti un provino, no? Ma il provino, guarda, sinceramente l'ho fatto pure a Tusic e Valos, ma hanno bocciato. Cazzo, cioè, pure Tusic e Valos, con la De Filippi, io no? Ho fatto una canzone nuova, fresca fresca, infatti mi dicevano, ammazza quanto è bella, me l'hanno detto, bella, sono due anni sono passati. Vabbè, allora, di una cosa ai produttori italiani. E niente, che devo dire, guardate un attimo oltre, cioè pensate pure, cioè, voglio dire, piace tantissimo gli anni Ottanta, devono ritornarsi gli anni Ottanta in Italia, la musica degli anni Ottanta è stata la migliore secondo me, modeste a parte riesco al di fuori delle mie canzoni di trasmettere qualche emozioncina quando vedi poi le persone davanti quando ti fai queste canzoni anni 60. Ok, allora, noi Bruno ti ringraziamo e da quanto ci è sembrato di capire pare che un posto stai cercando di trovarlo, no? E ti salutiamo sulle sulle note di questa tua altra bellissima canzone che è Mi Vida Su Amor, Bruno Maccarri. Baila bala morena, baila tutta la sera che te porto in riva al mare e con la luna potrai vedere quanto è grande per te il mio amore, ti rapisce, lo puoi sentire, il mio mondo questo è sta mi corazon. Baila bala morena, baila tutta la sera che te porto in riva al mare e con la luna potrai vedere quanto è grande per te il mio amore, ti rapisce, lo puoi sentire, il mio mondo questo è sta mi corazon. Sei stata tu che mi rubaste il corazon, solo per te stai scrivendo sta canzone. Mentre balli con me, sento il cuore che scoppia per te, amor mio te chiedo, rimani un pochito ancora con me. Sei stata tu che mi rubaste il corazon, solo per te sto scrivendo sta canzone. Mentre balli con me, sento il cuore che scoppia per te, amor mio te chiedo, rimani un pochito ancora con me. Vedo i tuoi occhi brillare e la tua voce tremare, mi abbracci con quel calor, succede quando l'amor, quel ci tacca d'emozione, mi amor te trae al sol, tutta tu vida serás el corazon. Vedo i tuoi occhi brillare e la tua voce tremare, mi abbracci con quel calor, succede quando l'amor, quel ci tacca d'emozione, mi amor te trae al sol, tutta tu vida serás. Porto in riva al mare e con la luna potrai vedere quanto è grande per te il mio amore, ti rapisce, lo puoi sentire, il mio mondo questo è sta mi corazon. Baila bala morena, baila tutta la sera che te porto in riva al mare e con la luna potrai vedere quanto è grande per te il mio amore, ti rapisce, lo puoi sentire, il mio mondo questo è sta mi corazon. Sei stata tu che mi rubaste il corazon, solo per te sto scrivendo sta canzone. Mentre balli con me, sento il cuore che scoppia per te, amor mio te chiedo, rimani un pochito ancora con me. Sei stata tu che mi rubaste il corazon, solo per te sto scrivendo sta canzone. Mentre balli con me, sento il cuore che scoppia per te, amor mio te chiedo, rimani un pochito ancora con me. Vedo i tuoi occhi brillare e la tua voce tremare, mi abbracci con quel calor, succede quando l'amor, quel ci tacca d'emozione, mi amor te trae. corazón, toda tu vida serás el corazón. Vedo i tuoi occhi brillar e la tua voce tremar. Mi abbracci con quel calor, succede quando l'amor, quel città cade emozione, mia morte trae al sol, toda tu vida serás el corazón. I fuori posto. Rieccoci qua, sempre fuori posto su Radio 24. Caro Filippo, ti vedo un po' sciupatello. Sono sciupato perché attualmente mangio poco, caro Umberto. Mangi poco? Che regime alimentare hai? Beh, io adesso ho adottato un regime alimentare molto sano, cioè ho eliminato la carne, i formaggi, i salumi e mi concentro esclusivamente su frutta e verdura. Ma ti concedi qualche strappo alla regola o no? Guarda, cerco di essere il più rigoroso possibile perché ho scoperto che l'alimentazione sana è l'equazione della salute. Ah, hai capito, pensate. È proprio di questi tempi dove, come dire, incombe, no? Altro che prova costume, ormai... Cioè, se sei in forma bene, se no è meglio che non ti ci metti. Ormai addio. Oppure rischi, tipo noi, no? Cioè, sì. Ma noi, per fortuna, siamo chiusi dentro questo studio di Radio 24, al mare non ci andiamo. Noi, col programma Fuori Posto, cogliamo due piccioni con una fava. Esatto. E... cioè, raccimoliamo qualche soldo, giusto per tirare a campare. Come 2 lire per fare la spesa. E in più non abbiamo il problema di, andare in spiaggia, esatto, no? Esatto, per la gioia dei bagnanti, che non vedono i nostri fisici orribili. Dei bagnanti. Esatto. Insomma, quindi stiamo qui e non abbiamo il problema della prova costume, giusto? Zitti, nascosti, anche nessuno perché, ci vede. Diciamo, adesso impazza estate, quindi impazzano comunque le diete, no? C'è la dieta Dukan, no? Sì, la dieta Dukan. C'è la dieta del minestrone, no? C'è quella vegetariana. C'è anche un dibattito, no? Proprio in questi giorni, no? C'è chi dice che essere totalmente vegani fa male, c'è chi dice che fa benissimo. Ci sono delle correnti di pensiero molto accese, sì, no? A volte anche contrastanti, cioè... E addirittura c'è qualche parlamentare, no? Che ha proposto una legge, no? Per ridurre il consumo di cibi calorici nelle scuole, no? Comunque, quando si parla di alimentazione, no? Visto che, ad esempio, l'America è tra i paesi che ha il più alto tasso di obesità, c'entra anche la politica, giusto? Certo che la politica deve anche regolamentare l'alimentazione dei cittadini, deve dire la sua. E quando c'entra la politica, deve partire il nostro momento fuori politica. E quando c'è il momento fuori politica, secondo te? Secondo te? Ho un vago sospetto. Con chi ne dobbiamo parlare di politica? Secondo me con Martina Dell'Ombra, vero? Ciao a tutti! Cosa ci dai? Un? Però è bello, Martina, avere... Ecco, no, mi mancava, scusami. Un quizzino, sì. È bello comunque avere a che fare con Martina, perché comunque c'ha sempre questo entusiasmo, no? Di partire. Sì, sempre, super, super entusiasmo. Super positività. Super positivismo. Positivismo era una corrente di pensiero. Chi erano i positivisti? Quelli che fanno gli arcobaleni su Facebook, mettono sempre le emoji. Filippo, digli tu, no, cos'era il positivismo? Il positivismo era una corrente di pensiero del 1700, no? Quelli che vedevano nel progresso sociale, diciamo, la possibilità per tutti di stare... Ma Filippo è uno che ha studiato... Sono persona colta, sono laureato. Anche all'illuminismo, o no? Certo, sono comunque figli della stessa epoca, no? Il positivismo è la fiducia nel progresso. Hai visto che uomo di cultura, Filippo? Non c'è... appunto, quelli che usano l'emoticon sui social. Ma nel 700 mica c'era l'emoticon. Ora si usano molto gli unicorni. Addirittura? Sì, gli unicorni che vomitano arcobaleni. Unicorni che vomitano che cosa è questa roba? Dice che schifo, l'unicorno che vomita un arcobaleno. È un emoticon? Sì, dovete andare su Snapchat e praticamente c'è la faccia dell'unicorno che vomita arcobaleno. Vi potete unicornizzare anche voi. Ma noi siamo qui a lavorare, non abbiamo tempo di andare su Snapchat. Ci dobbiamo unicornizzare. Cazzo, Filippo, se si unicornizza non la vedo positiva sta cosa, Martina. Ma sì, non divaghiamo. Cioè, noi eravamo partiti, no? Da alimentazione e politica, no? Cosa pensi tu? Filippo si sta convertendo, no? Al veganesimo, no? Sì, da un po' di tempo io ho abbandonato tutte le proteine animali, non mangio più carne, formaggi, salumi, perché ritengo che la frutta e la verdura siano la fonte del benessere, della salute. Tu cosa pensi? Ma perché? Allora, va bene che per ora essere vegani va molto di moda. Essere? Essere vegani va molto di moda. Vegani. Però... Vegani, perché il termine inglese, e non è che io vi devo sempre spiegare tutto, però... dice vegani. Sì, io da che mondo è mondo sento dire vegani. Vabbè, ragazzi, siete vecchi, fa niente. Comunque, ti dico vegani, i vegani vanno molto di moda in questo momento, però... È una cosa che secondo me non deve essere in alcun modo culdeggiata. Caldeggiata. Sì, insomma, perché non è che puoi non mangiare la carne, perché comunque ancora la maggior parte dei ristoranti stellati, eccetera, fanno le cose con la carne, col burro, eccetera, e tu non è che puoi permetterti di non mangiare, che figura ci fai? A parte il fatto che sembri a dieta e quindi sembra che sei grasso. Vabbè, che vuol dire? C'è chi piace la carne, chi piace mangiare frutta e verdura, cioè io non ci vedo niente di male. Ma sembri a dieta, capito? Se sembri a dieta, le persone. Ma che ce ne frega di sembrare a dieta, no? Che uno deve far vedere agli altri quello che sembra. E poi quelle cose sono tutte cavolate degli animali, perché comunque io ho la prova, gli animali non soffrono. Tu hai la prova? Ti faccio un esempio, io ho un barboncino, lo pettino tutti i giorni, quando lo pettino gli tiro proprio i... riccioli, non è che lo faia. Grazie, mica parlano gli animali. Quindi significa che non si fa male a me. Ma che c'entra? Magari si fa male, però non è che ti dice mi hai fatto male. No, io lui lo tiro un sacco, glieli strappo. Ma tu che c'hai? Un bastardino, che hai detto? Un bastardino? No, un è un barboncino, il bastardino è la tua sorella. Ma ancora con mia sorella? Ma che c'è? Ma guarda, mo non ho capito, cioè che c'è di male nell'avere un bastardino, non ho capito, cioè anzi facciamo un appello, di questi periodi ci sono tanti animali che purtroppo vengono abbandonati. Compratevi il cane! Ma no, compratevi, li trovate anche per strada purtroppo, perché sono le persone che li abbandonano lungo oppure le andate nei canili e adottate un cane abbandonato, giusto, facciamo un appello a tutte le persone, Martina, che in questo momento magari vogliono avere un animale. L'estate è un momento molto tragico e molto critico. Siccome può essere divertente, compratevi un cane. Sì, magari col pedigree. Sì, certo. Dai, ma non dire sciocchezze. Ma una persona come te che vuole fare politica, non è bello sentire queste cose. Razze particolari, razze coltivate apposta, delicate, di quelle che le persone vi fermano e vi dicono: oh, che bello! Ma scusa, perché tu non adotteresti mai un bastardino? Ma quelli vanno bene per i barboni per strada che chiedono l'elemosina, no? Ma che dici? Ma sei matta? Cioè, allora mo facciamo una cosa, ci pigliamo il barboncino e magari ce lo mettiamo nella borsa di Louis Vuitton. Sì, anche se la borsa di Louis Vuitton ormai è un po' passata di moda per i cani, adesso si usano altre marche, però va bene. Ma sei matta? Scusa? Cioè, vabbè, ma il cane deve stare da qualche parte, non è che può camminare per terra. Perché non può camminare? Guinzaglio cammina il cane, no? Ma che schifo, poi entra in casa, lo sporco, eccetera. Comunque per strada ci camminano tutti, purtroppo, e la sporcano. Sono state pubbliche. Tu hai altri buoni motivi per continuare a mangiare la carne, perché mi pare che sei della scuola... Di quella scuola di pensiero. Sì, essendo carne fa tonico. Fa tonico? Che la carne è un muscolo e quindi... ti fa più muscoli, capito? Ma non è vero, anche le proteine, la forza la puoi trovare anche nei fagioli. La carne diventa nel metabolismo dell'organismo, si diventa un muscolo, capito? Ah, se vuoi io ti invito a cena una delle prossime sere, mangiamo te prego. Come te prego? Non ho capito. No, grazie, un peperone. No, ti porto in un ristorante costoso. Mi stai dando buca? Ma dovresti comprarti il vestito, poi. Ma chi te la dà? Ma ce l'ho i jeans, la camicia. Umberto ha una bella camicia, un bel paio di jeans, così acqua e sapone. Di quelli che hanno i tessuti che puzzano, dai, te prego. Ma non è vero, puzzo, io mi lavo, Umberto, non ho capito. Tutte le mattine lo vedono. Poi li fanno a Napoli, quindi non è che tu ti senti a casa. Anzi, io siccome sono della provincia di Napoli, orgoglioso di esserlo, no, di Torre del Greco. Salutiamo tutta la Campania, no? Certo, i nostri amici campani. Ciao bambini campani che lavorate nelle fabbriche. Ma che dici? No, ma come ti permetti? In Italia nessuno lavora nelle fabbriche. Ma i bambini non lavorano nelle fabbriche, per fortuna. A Napoli, ma come a Vicenza, come a Reggio Calabria o come in Basilea, ci sarà un piccolo, ci sarà una parte di persone sfruttate che lavorano in nero, ma noi ovviamente condanniamo il lavoro nero, ma che c'entra? Mo a Napoli i bambini lavorano, ma che dici? Ma perché voi invece fatturate, non lavorate, cioè voi fatturate regolare. Come dire, per me, Radio 24, il gruppo del Sole 24 ore, tutto regolare, tutto trasparente. Perché, scusa? Vabbè, per quello siete poveri, vabbè. E noi siamo poveri perché paghiamo le tasse? Noi fatturiamo e paghiamo le tasse, Martina. Infatti siete poveri. Vabbè, comunque Marti, il nostro tempo per oggi, ahimè, o per fortuna è scaduto, no? Mi raccomando, non siate vegani. Vegani. Vabbè, se volete potete seguirci anche sulla nostra pagina ufficiale Facebook I Fuori Posto. Potete anche scriverci ai Fuori Posto @radio24.it o mandarci un messaggio in segreteria allo 02465 24 182, o un bel WhatsApp appunto al 349 2386 666. Per oggi è tutto, noi vi aspettiamo domani puntuali alle 10 su Radio 24.